Animati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso, manca un minuto, gol di Grosso, Cannavaro, che contropiede per Totti, dentro il pallone per Girardino la porta nera anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Berlino. È finita, chiudete le valigie amici, si va a Berlino Peppe. Andiamo a Berlino Peppe. No, dicevo che a Berlino ci siamo stati, sappiamo anche com'è finita, questa era Dortmund nel 2006 e avrete già capito in questa settimana che Giorgio De Luca, pur essendo napoletano, se ne fa un bel paio di baffoni della scaramanzia, tanto che vi abbiamo riproposto tutti i successi storici dell'Italia contro la Germania in tornei come europei e mondiali. Abbiamo capito ieri sera che l'avevamo già capito da un pezzo, che l'ingiustizia fa parte del gioco. Il Portogallo, una delle peggiori squadre di questo europeo, mai vinto nei 90 minuti regolamentari fin dall'inizio, si è qualificato per la semifinale nonostante un pessimo Cristiano Ronaldo, ma con un diamante grezzo acquistato dal Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, già Renato Sanchez, che ha cominciato a brillare, anni 18. Però stiamo sulla nostra nazionale. Votate. Qual è il vostro pensiero per domani? Che cosa sentite? Vinciamo oppure no? 800 24 00 24, numero verde. Tanto noi possiamo raccontarvi cosa succede nel ritiro azzurro grazie al nostro inviato Dario Ricci in viaggio verso Bordeaux. Ciao Dario. Ciao Carlo, ciao. In realtà sono già arrivato a Bordeaux, Sei già un po' avanti. Sì, un po' avanti per questioni logistiche rispetto agli azzurri, che invece qui a Bordeaux arriveranno solamente alle 18, ma le notizie importanti in realtà questa mattina, come già ben sai, arrivano proprio dal Bernard Gasset di Montpellier. Perché? Perché c'è stato il consueto allenamento e Daniele De Rossi non ha partecipato alla prima parte dell'allenamento, quella ad uso e consumo dei media e delle TV, tanto per riprendere un po' di immagini del Torello e sentire qualche sorriso più o meno artefatto, ma cosa più importante, invece ha preso parte alla parte seria, alla parte più strutturata, più complessa, anche più pesante. Questo è il frutto del grandissimo lavoro che Daniele sta facendo e ha fatto in questi giorni. Ieri addirittura alle 9 del mattino si è presentato da solo lì al Bernard Gasset per un supplemento di lavoro, ha a sua disposizione chiaramente macchine ultratecnologiche, elettrostimolatori di ultima generazione per cercare di far rientrare questo ematoma sulla coscia destra, che l'aveva fatto uscire dopo 53 minuti contro la Spagna. E poi, cosa più importante Carlo, ed è questo l'argomento insomma di riflessione, è che il dialogo col CT, con Antonio Conte, è apertissimo e fittissimo, perché il giocatore sta manifestando una voglia assoluta di esserci in questa sfida. E non è assolutamente detto che De Rossi stia a guardare, come abbiamo pensato fino a ieri, anche dopo aver sentito il dottor Castellacci, sembrava quasi fuori da questa partita. Io ti dico la verità, ci ho sempre sperato, perché alla fine si tratta di una botta molto forte, molto seria, molto dolorosa, ma pur sempre di una botta. Di solito queste cose in 5 giorni si risolvono anche normalmente, se non ci sono poi problemi di ripercussioni più gravi dal punto di vista muscolare. Sì, in realtà poi Castellacci proprio a queste ripercussioni aveva in qualche modo fatto riferimento, no? Perché aveva parlato di fibre lesionate. Ora però il problema è anche un altro, Carlo, ed è questo un po' uno dei temi che ti lancio, è che questa volontà di De Rossi mette in qualche modo in crisi il sistema Conte, perché l'abbiamo visto proprio contro il Belgio, Florenzi, gli nasce la figlia, episodio bellissimo, salta un allenamento e mezzo, poche ore di ritiro ed è fuori dalla prima partita, no? Conte ha questa convinzione, si devono fare tutti gli allenamenti, si deve essere al 110% fisicamente per poter far parte dell'11 titolare. Ora, questa volontà di De Rossi, la sua abnegazione, il suo sforzo, il suo recupero oggettivo, può mettere in crisi anche queste convinzioni, quindi è anche una situazione diversa da gestire sia per Conte che per il gruppo stesso, considerando pure che però tutto lo sforzo che sta facendo Daniele per essere in campo entra nel vissuto del gruppo, cioè quando tu vedi un giocatore 32enne, già campione del mondo, che ci mette questa voglia, questa grinta, no, ma poi è un giocatore fondamentale per noi. Io non credo che sia questione di un allenamento e mezzo saltato, credo, ma a parte che magari Florenzi non avrebbe, probabilmente non avrebbe fatto parte dell'11 titolare, nemmeno avesse fatto tutti gli allenamenti, perché la formazione originaria prevedeva comunque in quel ruolo Candreva, che ormai è lungo degente per questo europeo. Io credo che se De Rossi dovesse farcela, magari con una punturina dell'ultimo minuto, lo vedremo in campo al suo posto. Certo è che se Conte ha intenzione di farlo giocare, è meglio farlo giocare dall'inizio, come dico sempre in questi casi, quando è riscaldato, quando è pronto, che non subentrare a partite in corso, perché quello sarebbe probabilmente più rischioso, ma non credo che accadrà. De Rossi lo vediamo dal primo minuto e vediamo qual è la sua tenuta, oppure resterà a guardare la gara. Non credo ci siano molte altre alternative. Dario, grazie. Grazie a te, Carlo. Buon lavoro lì, ci sentiamo dopo. Grazie a Dario Ricci, ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24. C'è chi mi scrive di aver più paura della finale contro il Belgio rispetto alla partita di domani. Bah, ragazzi, ci sono l'Isoard, il Tourmalet, il Mont Ventoux, il Mortirolo, mettete le montagne più dure d'Europa, tutte quelle che volete, tra noi e quella eventuale finale con il Belgio, ma credo che sarà Belgio in finale, visto l'orripilante Portogallo di ieri sera. Tra noi e quello c'è davvero l'intera catena delle Alpi. A dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Stiamo cercando di prepararla al meglio, come abbiamo fatto con la Spagna. Sicuramente sarà una partita più dura, perché comunque sono i campioni del mondo in carica, sono una grandissima squadra, però anche noi siamo consapevoli delle nostre qualità e penso comunque che la forza del gruppo, quella che abbiamo messo in campo contro la Spagna, possa mettere in difficoltà anche la Germania, se lavoriamo bene sui loro punti debolezza, ecco. Questo era Mattia De Sciglio, ieri uno dei tanti miracolati da questa nazionale di Conte. Oggi abbiamo letto la sua storia ai confini della depressione con il Milan, ma viene da fare una battuta un po' lugubre, non è difficile deprimersi con il Milan di questi anni, e adesso grande protagonista di questa nazionale. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Bene, senti, Gianmarco Ferronato in regia, saluta tu Federico Binda che ha l'ultima convocazione oggi, almeno per il momento. Lo saluto, certo. Facciamo un grande finale. Facciamo un grande finale. Maglia ritirata, ma poi gliela riconsegniamo in caso di ritorno, perché le maglie possono essere riconsegnate. Certo. Saluto Tony Damascelli. Ciao Tony. Dov'è? Tony Damascelli è caduto. Ma lo recuperiamo istantaneamente. È in Salento, intanto scrive frasi velenosissime su tutto sport nei confronti delle grandi sicurezze che hanno i tedeschi. Vediamo se aveva recuperato. Ciao Tony. Presente. T'avevo annunciato. Senti, nel leggendo i tuoi scritti oggi su Tutto Sport mi è sembrato di cogliere un leggerissimo fastidio per tutte le sicurezze, la sicumera tedesca. Ma magari mi sbaglio io, No, forse si sbagliano i tedeschi, ma loro sono sicuri come sempre, sono sempre sicuri di essere i migliori. A livello politico, economico, storico, culturale, turistico, calcistico, sono campioni del mondo, quindi portano vanto. I conti storici invece sono il nostro vantaggio. Sì. Devo dirti che questa sicurezza loro ci eccita. Non abbiamo bisogno di essere in minoranza per sentirci più forti, per reagire. È una strana vicenda questa ed è una strana vigilia. Sì, io mi aspetto... Perché è strana? Strana perché da una parte si improvvisa fiducia in questa squadra dopo che era stato scritto la partita con l'Irlanda che effettivamente eravamo quelli e non altri. Dopo la partita con la Spagna, dopo la partita con l'Irlanda, dopo la partita con la Spagna improvvisamente siamo in paradiso e quindi possiamo battere chiunque. È un tipico comportamento, soprattutto la nostra stampa più che i nostri tifosi. Mm. E io mi aspetto già domani sera, in caso di sconfitta, i franchi tiratori, su Antonio Conte, gli stessi che un mese fa lo volevano in carcere, oggi lo celebrano. Sì, e dall'altra parte invece una sicurezza, una fiducia incrollabile espressa da tutti, protagonisti attuali ed ex, Brigel, ho letto interviste da tutte le parti. Non abbiamo più la sindrome italiana, questa volta vinciamo noi. Messaggino della Merkel a Löw, messaggino di Löw alla Merkel, insomma, praticamente ci hanno già battuti. Sì, per fortuna Conte non dà messaggi a Matteo Renzi e soprattutto viceversa. Sì, ci hanno già battuti, questo serve moltissimo, perché quando qualcuno si considera decisamente più forte poi lo deve dimostrare. Lo deve dimostrare in 90 minuti. Queste vicende dell'europeo ci insegnano esattamente il contrario. Ci insegnano che le partite possono decidersi in maniera anche bizzarra, possono essere decise non soltanto dal gioco espresso dalle squadre, ma da una serie di fortunate congiunture che passano anche tra i calci di rigore. Però sta ai tedeschi dimostrare di essere campioni del mondo. Noi se dovessimo usciremmo, non si dice a testa alta perché comunque sei sconfitta, non sarà una resa, non sarà una vergogna, perché i conti storici restano sempre a nostro favore. Certo. E i tedeschi vediamo sul campo se veramente, come io ritengo, attenzione, non sono così stupido o miope, i tedeschi è la squadra più forte che ci sia in circolazione a livello di nazionale, però poi bisogna giocare a pallone. Certo. E le medaglie sul petto non contano più. Certo. Pierluigi, la pensi anche tu come Damascelli? Guarda, io ieri mattina ho fatto un post su Facebook, dicendo quanto mi piace la sicurezza di Teresa, perché è veramente incredibile, è veramente un dato storico assurdo, perché alla vigilia di ogni partita con l'Italia succede questa cosa qui. Qualche volta in maniera più colorata e stereotipata, con la serie delle cose, la pizza, il mandolino, gli spaghetti, qualche volta in maniera... Tra l'altro, storicamente i tedeschi hanno un rapporto strano con noi, nel senso non hanno alcun rapporto di ammirazione, non hanno un rapporto ostile in assoluto con l'Italia, credo che siano anche abbastanza attratti e sensibili al nostro fascino, che è il loro esatto opposto, ovviamente, generalizzando. Poi ci sono tedeschi molto italiani, fantasiosi, italiani molto tedeschi, e quadrati, però è chiaro che sono due popoli che statisticamente sono molto diversi, e però poi spesso nella realtà il campo ribalta questa loro sicurezza, per cui mi dà molto piacere, sono d'accordo con Tony, mi dà molto piacere leggere queste loro certezze, perché secondo me ci fanno bene. Noi tiriamo fuori le nostre qualità migliori, l'abbiamo detto mille volte ormai, ma noia quasi ripeterlo, nella difficoltà, nella sofferenza, nel senso d'urgenza, nel last minute, qualche volta nel last second, nel sentirci con le spalle al muro, e questa qualità, quindi dichiarazioni come queste, un clima come questo, è il nostro habitat naturale, contribuire a tirarne fuori. È il nostro habitat naturale, quello in cui nuotiamo meglio, quello di cui ci cibiamo. Tony, accennavi prima al partito del contismo, che oggi è largamente maggioritario. Non manca un'opposizione sparuta, no, subacquea, sotterranea, ambigua, guidata da Marco Travaglio, ad esempio. Guarda, io, se cominciamo a fare i nomi e i cognomi, l'elenco è lungo e lui è il capofila di questo. Bisogna farsi riconoscere anche nelle sciocchezze. Lui è un grandissimo giornalista, è un eccellente giornalista. se bisogna farsi riconoscere per dire ti, no, mi dà fastidio Conte, mi dà fastidio Prandelli, mi dà fastidio, beh, se facciamo l'elenco degli italiani ai quali dà fastidio Marco Travaglio, forse finisce 6-0, ma cosa vuol dire fastidio? Cosa vuol dire? Non è necessario che Travaglio o Vittorio Sgarbi tifino per l'Italia, nessuno gliela ha chiesto. No, c'è libertà se di tifo, voglia, sacrosanta. Sì, ma se... Professiamo c'è, sempre. C'è questo, questo capalbismo di considerarsi diversi e quindi tifiamo per la Germania, sì, ma tifiamo per la Germania, tifiamo sempre per qualcun altro. Per qualcun altro, soprattutto guardandoci allo specchio, considerandoci noi i depositari della purezza, dell'onestà, della realtà, e gli altri invece sono tutti dei poveri idioti, corrotti e corruttori. Quindi io tifo per l'Italia, ma non perché sono italiano, perché mi piace questa squadra, mi piace moltissimo il suo allenatore, mi danno fastidio tutti gli altri, compreso Joachim Löw, che come Grenui continua a usmare. Ho letto attentamente. Sì, lo ribadirò. Con i suoi, in con i suoi lui non sentiva il proprio odore. Slim lui fit. È, eh? Sì, lui tra l'altro è un romanzo tedesco, da spasso. Ma lui non sentiva il proprio odore, però è un olfatto strepitoso. Lui invece vedo che continuamente, lo dico questo, proprio per provocazione, perché visto che noi siamo spaghettari, mafiosi, e tutto il resto, incominciano a guardare in casa loro, insomma, mi pare che abbiano delle pendenze storiche molto più importanti degli spaghetti, no, ma certo. Se vogliamo metterla su questo piano abbastanza banale e anche volgare. Dicevi, Pier? No, ma io dell'italiano non mi sento veramente, lo dico, non mi sento in difetto con nessun altro popolo, cioè, credo che gli italiani abbiano esportato cose certamente molto brutte, ma anche cose molto belle. E mi sento fortunato nel vivere in un posto così bello, non credo che ce ne siano molti altri al mondo, anzi per quella che è la mia modesta esperienza non mi sento provinciale nel pensare che la quantità di bellezza che c'è in Italia è molto difficilmente replicabile negli altri paesi, dove pure è pieno di cose belle, ma insomma io penso che noi ne abbiamo veramente tante. E su Travaglio, stamattina mi ha chiamato anche un giornalista dalla Sardegna, ognuno fa quello che vuole, io francamente ribadisco il concetto, non si può comandare al cuore, se uno realmente non ha in simpatia Conte e vuole tifare per la Germania lo facesse, io non lo capisco, scelta, non la capisco e penso che se c'è un difetto che noi italiani abbiamo è quello tante volte di dividerci nel non stare, no, nel non stare tutti dalla stessa parte, nel pensare che siamo tutti italiani ma io sono più figo di te, facciamo un po' fatica a fare squadra, per cui è anche vero che tante volte invece lo spirito patriottico, quando se diventa semplicemente il banale tipo per la nazionale, viene svilito, cioè poi amare questo paese lo dimostri tutti i giorni facendo tutta la serie facendo di cose, facendo delle altre cose, questo è quindi evidente, quindi non ti fanno la nazionale, ma ognuno fa quello che gli pare, libertà di tifo, poi si ho già la maglietta, ecco. Anch'io, caro Pierluigi. Anche tu, Tony. Ho la maglietta dell'82 numero 14. Ah, beh. È il suo regalo personale. Marco Tardelli. La sua, proprio la sua. Senti. Un po' lacerata, ma ce l'ho ancora. Senti, un'ultima cosa, Tony, rispondi a questo messaggio. Dite quello che vi pare, ma se l'Italia viene eliminata, il signor Conte ha fallito. Chi ha firmato questo? Gianni. Adolf Hitler o Frau Angela Merkel? Semplicemente Gianni. Gianni è un fallito, se pensa questo. È lui un fallito. Perché il Conte non ha fallito nunca. Cosa vuol dire fallito? Come risultato, intesa come risultato complessivo. Io non sono d'accordo. Si passa da Piazza Venezia a Piazza del Loreto. E questo è il totale, è sempre questo. Ho detto, io sono pronto a scommettere per la lettura domenica mattina di alcuni illustri colleghi che scriveranno: io l'avevo detto, è tutta una farsa, questo allenatore isterico, una squadra di poveretti, la Germania ci ha insegnato cos'è il calcio. Piccola parentesi, nessun giornale italiano, radio, televisione ha ancora parlato e tirato fuori la storia della corruzione del calcio tedesco. Questo ci sono dentro tutti, dall'ex presidente Nischbach, che è un collega giornalista, fino a Franz Beckenbauer. Non ne parla nessuno. Pensa se fosse una cosa nostra. Milioni per comprare il mondiale del 2006, cioè l'aggiudicazione mondiale. Milioni di euro. Però non ne parla nessuno. Sì. E loro sono bravi, loro sono i più forti, loro sono i più onesti. Questo non dà fastidio. Grazie Tony. Ci sentiamo presto, un abbraccio. Ciao, posso dire una cosa sulla domanda dell'ascoltatore? Io penso che se l'Italia dovesse uscire, soprattutto se dovesse uscire, diciamo, dignitosamente, cioè senza una goleada, il bilancio sarebbe positivo. Cioè, comunque un quarto di finale nell'Europeo, dato il punto di partenza, eliminando gli spagnoli, questa metà del tabellone Belgio, così che sarà complicata, partendo il Belgio, no, sportivamente spesso distinguiamo, no, tra il risultato dell'Albo d'Oro e il risultato sportivo. Dal punto di vista sportivo l'Italia ha fatto fin qui un meraviglioso europeo, Pierluigi. Adesso si tratta di vedere se siamo abbastanza bravi e fortunati per scavallare le montagne che ci aspettano. Borsa, torniamo. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Noi cerchiamo di non pensare ai risultati storici. Abbiamo molto rispetto della squadra italiana, ci ha messo sempre in difficoltà, però dall'altra parte sappiamo anche delle nostre forze, sappiamo che potrebbe essere il momento giusto, ma sappiamo anche che sarà una grande lotta, che sarà molto difficile e secondo me è l'avversario più difficile che potevamo incontrare. Qualità italiana è sempre più o meno la stessa, anche di grande organizzazione, grande intelligenza tattica, vedo un gruppo molto unito con giocatori che si conoscono a memoria e loro hanno dei automatismi che hanno messo in difficoltà tante altre squadre. C'è questo il rischio, d'altra parte noi abbiamo grande qualità personale, grande creatività dei nostri giocatori, possesso palla e secondo me sarà da vedere con quale ritmo e velocità noi possiamo creare delle occasioni. Questo era Oliver Bierhoff, che prendiamo come voce della Germania. Un'altra voce della Germania via SMS che ci bacchetta: mi chiamo Müller, io penso che invece voi siete arroganti, voi pensate di aver già vinto l'europeo, state calmi, tanto la Germania potete batterla solo con il calcio, invece dal punto di vista dell'onestà, serietà, puntualità avete tanto da imparare. Derby d'Europa non la mettiamo su altri piani perché non mi sembra sinceramente il caso. Pierluigi Pardo, rispondiamo agli ascoltatori che sono in linea invece. Ma chi era questo qui, l'ultimo? Uno che si chiama Müller, non lo so, un ascoltatore che scrive. Il signor Müller, lo salutiamo, ma insomma non è una sfida fra popoli. Esatto, non è una sfida fra popoli, non è una sfida fra culture, è semplicemente il vero derby calcistico d'Europa. E se c'è una cosa, è vero che abbiamo molti difetti noi italiani, però probabilmente in generale non abbiamo, anche qui mediamente, anche qui generalizzando, ma insomma mediamente non abbiamo questa pretesa di diventare i padroni dell'Europa, del mondo, e di dire che siamo più bravi di tutti gli altri. Questo, ecco, abbiamo altri difetti, ma questo qui mediamente non ce l'abbiamo, sì. Per dimostrare al mondo che siamo noi la locomotiva, poi non lo siamo, per carità, però in alcuni campi della cultura, per esempio del turismo, della bellezza, penso che l'Italia sia una locomotiva, e anzi probabilmente neanche poco consapevole, no? Dovremmo essere molto, certo, più consapevoli. Io sono rimasto francamente colpito, facendo tutta una serie di viaggi, da come per esempio gli americani sono riusciti a trasformare alcuni loro luoghi belli, per carità, interessanti, sì, in luoghi di culto quasi. In luoghi di culto, cioè se vai a Zabrinsky Point, ovviamente reso celebre da Antonioni, vai nella Valle della Morte, per carità, sono posti belli, sono posti bellissimi, però poi insomma alla fine se non riuscissimo a fare, noi potremmo fare il marketing, forse abbiamo troppa roba, ecco, potrebbe anche esserci questo, che abbiamo troppa roba, cioè ogni singolo paese di ogni volta che ti giri italiana, ogni volta che ti giri, no? Vedi qualcosa di bello e di diverso, sì. Questo ci porta anche a essere dispersivi nella promozione delle nostre bellezze, che sono tante, però ecco questa tanto proviamo a promuovere la nazionale di calcio. Vai. Per adesso va bene così. Gerardo, buongiorno, dica. Allora, niente, io chiamavo per far avvicinare un po' di tifosi appunto alla nostra nazionale, perché sto guardando tutte le sere canali tedeschi, sono sintonizzato con un satellitare ibrido e vedo ZDF, DAS e Aste, e fanno tutte le sere rubriche contro di noi. Due sere fa c'è stata una rubrica che tre ingegneri tedeschi costruivano un finto ospedale fuori dallo stadio di Bordeaux, perché noi siamo violenti, quindi si preoccupavano di mettere tutti in ospedale, insomma, che noi ammazzavamo gente e loro portavano in ospedale. Mentre ieri sera c'era un'altra rubrica, raggiungevano con una Fiat Punto le campagne delle tedesche, dove c'era una chiesetta, entravano e c'era questa cassa da morto con sopra la nostra bandiera, e loro, questi tre che fanno sia ingegneri che i comici, mm-hmm, che tutto, hanno messo un fornellino con spaghetti che bollivano, e poi si sono fatti la spaghettata sulla nostra cassa da morto con questa bandiera italiana. Beh, buon gusto, ecco. Grande gusto. Elegante, sì. Elegante. Ecco, per chi appunto non è distante dalla nostra nazionale, se vedesse queste, sì, rubriche. No, Gerardo, non c'è bisogno, il cattivo gusto non credo che non abbia confini né paesi né cittadinanza, e non la metterei su una sfida di popoli, di culture, in questo sono d'accordissimo con Pardo. È una grande partita di calcio che vive questa vigilia, ha ragione Damascelli, un po' strana, in cui loro hanno grandi certezze, noi ne abbiamo un po' di meno. Posso essere molto, io non farei il cambio, magari sono provinciale io, ma io non farei il cambio, cioè la mia condizione di italiano non la cambierei con essere tedesco, anche se sicuramente il PIL, la crescita, lo spread, tutte queste belle cose che ci racconta Marigoni tutti i giorni, io, sì, probabilmente sono sbagliato io non farei a caso, cioè io sono più felice di essere qua a Roma, di andare stasera a Ischia, di vivere in questo popolo qui, in questo pezzo di mondo qui, e la Germania mi piace, attenzione, che sono stato, ho fatto gli Interrail, bellissima, sì, sì. Berlino, Amburgo, Lubecca, ci sono delle città meravigliose, però ecco, non mi sento nessun complesso di inferiorità, e credo che noi italiani non dobbiamo sentirci addosso nessun complesso di inferiorità. Simone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo dire che anche se si suonano gli inni, non parliamo di una guerra, ma parliamo di una partita di calcio. Questo resta chiaro. Quindi per noi non è divaghiamo. La partita classica, è il classico, è la nostra partita dei nostri padri e dei nostri nonni. Per loro è solo l'incubo calcistico, tutto qua. Certo, che speriamo non arrivino a sfattare questa volta, anche se posso dire che ci sta, perché la legge dei numeri mi preoccupa. Loro sono certamente favoriti, sono più forti di noi. Questo ad usare la ragione, contiamo sul fatto che il calcio sia uno sport spesso irragionevole, come d'altra parte ha di nuovo dimostrato il Portogallo ieri sera, no Pier? Perché il Portogallo è una delle peggiori squadre di questo europeo, con il peggior Cristiano Ronaldo che ricordiamo, e che arriva senza vincere una partita in 90 minuti alle semifinali dell'europeo. Ma l'ingiustizia, l'ho detto prima, è parte integrante di tornei come questo, quindi sì, bisogna infatti accettarne infatti anche la presenza, quando no? Spessissimo faccio questo ragionamento, un'altra cosa che ormai mi ha annoiato tantissimo, però è vera, cioè il fatto che le competizioni brevi sono un altro sport. Tu pensa, in un campionato diciamo di 20 squadre, il Portogallo dopo 5 giornate avrebbe 5 punti, quindi sarebbe in zona retrocessione. Sì. E invece in una competizione come questa è in semifinale. Sì, quindi sì, questo spiega molto, no? Anche dal punto di vista strettamente numerico e di meccanismo, la differenza che esiste rispetto a una competizione come può essere un girone unico all'italiana, dove ovviamente insomma il migliore dopo 38 partite viene sempre fuori, e se non viene fuori è perché c'è una distanza impercettibile tra due squadre o fra due o tre squadre, che viene risolta poi da un paio di episodi in fondo, ma insomma che esista una differenza fra la prima e la quinta non c'è dubbio, e qui invece può succedere che la quinta vinca l'europeo e che la prima sia eliminata perché sbaglia un calcio di rigore, e quindi insomma è completamente un altro sport. Ci fermiamo per traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Pierluigi, volevo valutare la tua conoscenza del vernacolo napoletano, posso? Vediamo, vai. Proviamoci. Ieri, Immobile e Insigne hanno fatto qualche domanda a Florenzi. Allora, vai. Capo Ciucci si perde l'acqua sapore. Che vuol dire? Te la faccio risentire? No. Vai, sì, grazie. Allora, capo Ciucci si perde l'acqua sapore. A lavare la testa dell'asinello si perde sia l'acqua che il sapone, cioè è chiarissimo, no? È chiarissimo, sì. È chiarissimo, cioè a compiere degli sforzi sbagliati si perde tempo e si perde questa sostanza. Risposta di Florenzi? A lavare la testa dell'asino perdi l'acqua e il sapone. Giusto. No? Giusto, bravo. Adesso ci vorrebbero quegli applausi finti che si sentono ogni tanto per Pardo. Altra domanda, ce li abbiamo, eccoli qui, ce li abbiamo. Altra domanda. Vai. Freo pesce con l'acqua e fai nozzi che figa sei. Fare, ripeti. Frire o pesce con l'acqua e fai nozzi che figa sei. Friggere il pesce con l'acqua e fare le nozze con i figli secchi, ma anche qui il concetto è sbagliare, capito? Certo, infatti la risposta friggi è questa. Friggi il pesce con l'acqua e fai le fai verbo. Te l'ho detto certo. Solo con la... Frio, il pesce con l'acqua e fai le nozze con i figli secchi. E fai le nozze con i figli secchi. Applausi scroscianti. Applausi anche per Ciccio Graziani che abbiamo convocato e ha risposto. Ciao Ciccio. Ciao ragazzi, ciao, ben trovati. Ciao. Come stai? Bene, grazie, tutto bene. Sei carico? Molto carico, sempre. Quando si gioca con i tedeschi, guai a scaricare le pile. Sarà una partita diversa da quella con la Spagna? Beh, ogni partita quale ha una partita sua storia. Sarà? No, ogni partita ha una sua storia, tra l'altro. Ci siamo in parte anche un po' meravigliati per la pochezza sotto certi aspetti anche della Spagna, anche se io continuo a dire che quando una squadra a volte gioca male c'è un po' di demerito della squadra, ma c'è anche i meriti di chi ci gioca contro. Certo. E quindi tanti meriti all'Italia, però devo anche dire che la Spagna sotto certi aspetti a me personalmente ha deluso al di là del risultato. Sì, a me ha deluso fin dall'inizio del torneo, ma questo è un'opinione personale, certamente ha deluso una partita dell'altra sera. Come e quanto sarà diversa, Pardo, questa partita rispetto a quella contro la Spagna, tenendo conto dell'avversario? Quanto speriamo dovrà poco, essere diversa? Speriamo sia poco diversa, speriamo sia abbastanza simile, ma io la sensazione è che la Germania abbia un'altra energia soprattutto. La Spagna alla fine è stata una squadra tecnica, perché la qualità tecnica ce l'hanno comunque gli spagnoli, ma abbastanza spompata. Ora, se questo è un po' il discorso che faceva Ciccio prima, ora può darsi pure che ci sia sembrata spompata perché noi siamo stati bravi nel togliere spazi e tempi e ritmo alla manovra, quindi magari ci riesce lo stesso tipo di giochetto contro i tedeschi, è quello che mi auguro. La paura è che i tedeschi riescano a unire alla qualità e al 30, però una forza, una fisicità, un'energia, un'intensità che certo, potrebbe essere il problema. Cioè la Germania rischia di essere un'Italia più tecnica. La Spagna è una squadra invece tecnicamente migliore di noi, continuo a pensarlo, ma sicuramente meno che nella partita, poi nello scontro diretto ha mostrato delle lentezze ed è stato abbastanza facile che noi abbiamo sottolineato, che noi siamo stati bravissimi a sottolineare. Ciccio, hai capito perché Pellè ed Eder sono gli intoccabili? È l'intoccabile coppia d'attacco. Hai visto quanto corrono? Hai visto quanto si sbattono? No, ho visto quanto corrono, ho visto quanto si sacrificano, ho visto anche dei buoni meccanismi d'intesa e credo che Antonio non abbia sbagliato a puntare principalmente su di loro e far diventare gli altri delle alternative. In questo momento la coppia d'attacco che noi possiamo schierare migliore, quella che ci dà più fiducia, è proprio per lei ed Ere, che sono tutto sommato delle belle sorprese. Pensavamo facessero un po' più di fatica, invece hanno fatto veramente bene fino adesso, insomma. Secondo te, Ciccio, meglio De Rossi recuperato all'ultimo momento in campo con qualche rischio, o meglio la soluzione, il è piano meglio, B, Sturaro? È meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Meglio un asino sano che un cavallo zoppo, sì, abbiamo perché, capito. Perché c'è il rischio che se non sta bene il giocatore va in campo, dopo un quarto d'ora, mezz'ora lo devi sostituire e perdi già una sostituzione importante. Quindi se De Rossi sta bene e se la sente, perché tanto poi il miglior medico è se stesso, allora è giusto dargli la possibilità di scendere in campo. Ma qui non possiamo sbagliare nulla, non possiamo sbagliare secondo me neanche un cambio, perché c'è molto equilibrio. Già il fatto che ce la giochiamo alla pari, secondo me, per quello che penso io, è molto importante. Abbiamo in questo momento la consapevolezza che ce la possiamo battere con tutti. Speriamo di avere anche un pizzico di fortuna, perché nel calcio e nello sport serve anche quello. Ma insomma, mi voglio vedere gustare questa partita con la possibilità di poter continuare a gioire e che si possa ancora andare avanti in questo torneo. Eh sì, è la speranza che ci teniamo tutti. La chiave, secondo me, sarà nascosta tra l'erba del centrocampo, tra i loro trequartisti e la nostra capacità di contenerli. E poi ci possono essere alcune variabili, mi viene in mente a gara in corso Insigne, Pardo. Sì, beh, Insigne sicuramente è in soprattutto crescita contro questa Germania, contro questa difesa molto fisica, molto muscolare. Sì, è in crescita nelle quotazioni, è un giocatore che lo sappiamo, è il giocatore sicuramente più tecnico che abbiamo davanti, ciò nonostante è un cambio di questa squadra per il ragionamento che faceva prima Ciccio, perché poi comunque lì davanti comunque il rendimento è buono, ma soprattutto c'è un grande apporto alla fase di non possesso. Io la mia sensazione è che l'altro giorno, quel quarto d'ora nel quale abbiamo sofferto alla fine, era proprio perché legittimamente per lei era diventato un po' stanco, faceva più fatica a tenere i palloni, cosa che aveva fatto invece fino a quel momento in maniera straordinaria. Quindi la coppia d'attacco è confermatissima, però sicuramente Insigne può rappresentare la chiave per il cambio in corsa, soprattutto se le cose non dovessero andare bene. Il giocatore che ti può dare l'imprevedibilità e la giocata. Ma speriamo paradossalmente che non ci sia bisogno di quella situazione lì, no? Che invece la partita possa andare bene già da prima. Bene, l'altro giorno comunque è entrato sul sull'1-0 vantaggio per noi, ed è stato alla fine un cambio in cui Conte ci ha visto buono, giusto. Beh. Buono, no Ciccio? No, però vedi Insigne, secondo me, quando entra con la nostra squadra in vantaggio, dà un apporto maggiore alla sua qualità tecnica, perché gioca con più spazi, si gioca con un gioco di rimessa, certo, con delle ripartenze, lui ha più spazi. Se tu fai giocare Insigne quando magari gli altri sono in vantaggio e trova tra il centrocampo e la difesa pochissimi spazi, a volte anche i giocatori di talento fanno un pochino più di chiaro, fatica, per cui chiaro. Io mi auguro di vedere Insigne gli ultimi 20 minuti al posto di Eder o di Pelé, perché vuol dire che secondo me stiamo vincendo in quel momento. Grazie Ciccio. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, un abbraccio a Ciccio Graziani, campione del mondo. Sugli spazi è decisivo, nel senso che poi alla fine noi è sbagliato secondo me dire che questa squadra non ha qualità di manovra. Questa squadra ha meno qualità di manovra rispetto alle altre squadre, soprattutto quando deve fare la partita. Lo si è visto nei due match contro Svezia e Irlanda. Contro l'Irlanda, vabbè, era piena di riserve, ma anche contro la Svezia si è visto che quando noi dobbiamo imporre il nostro gioco, certo, facciamo un po' fatica, perché non abbiamo dei grandissimi palleggiatori, non abbiamo delle grandissime idee. Però siamo bravissimi a far male in un altro modo. Nel ripartire però, nell'inserirci. Match contro la Spagna non abbiamo fatto soltanto due gol, ma abbiamo fatto altre 4-5 situazioni importanti, sfruttando gli spazi con le ripartenze. Quindi vuol dire che in quel tipo di scenario, più di corsa e meno di tecnica, ci troviamo comunque al nostro agio. Certo. Pierluigi, sentiamo domenica dalle 5 alle 7, eh? Ci sentiamo senz'altro. Domenica dalle 5 alle 7 per tutti i convocati weekend. Adesso ci fermiamo per il GR. Gufi, state a casa! Tutti convocati. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi! Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Sotto ancora Cassano, il sinistro Balotelli, sì! Gol! Al ventesimo Balotelli, Mario Balotelli, porta il vantaggio d'Italia, incredibile come si è alzato Mario Balotelli, ma splendido l'assist con il sinistro di Antonio Cassano, bello per Balotelli, buona. È buonissimo Mario Balotelli, palla sul destro, e il gioco dei pali, 2-0, guardate, sembra una statua, 2-0. Esplode il tifo azzurro qui allo stadio di Varsavia. Finisce qui, chi lo avrebbe mai detto? Italia in finale, Italia più forte di ogni previsione, più forte della Germania, dell'Inghilterra, dell'Olanda, della Francia. Italia più forte del destino. E così abbiamo finito l'excursus storico, la saga delle sfide tra Italia e Germania, tutte da noi vinte. Ripeto, speriamo non porti sfiga, se no prendetevela con Giorgio Di Luca, io non c'entro praticamente nulla. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Grazie per la convocazione. E ho anche un po' di emozione a parlarvi, siete dei grandi. Volevo fare un paio di considerazioni, sì, e magari sentire cosa ne pensate voi. Cosa dite? Sarà una partita che si giocherà al 90% a centrocampo, quindi sarà un po' piatta. C'è questa eventualità che tutto sommato schifo non ci farebbe, no? Giusto. Poi non so voi, ma questo è il derby che si aspetta tutto il mondo, o no? Beh, sì, tutti questo aspettano questa partita. Nicola, questo è diventato un po', lo scrive anche Sconcerti oggi sul Corriere della Sera, nel suo fondo, è diventato certamente il derby d'Europa, lo insegna la storia, lo insegna questa rivalità soprattutto sportiva che c'è tra i due paesi. Leo Turrini, buongiorno, mi sente, professore? È immerso nella campagna francese perché i successi degli azzurri lo impegnano a rimanere là a seguire gli europei prima di tornare e di partire poi alla volta di Rio de Janeiro, perché Turrini è un giramondo. Speriamo di riuscire a recuperarne la voce. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo dire in merito, giustamente è una partita di calcio e lì si ride, si scherza, si scrive sui giornali, però goliardicamente voglio ricordare quando loro ci dissero Schumacher scendi da quel peperone rosso e sali sulla nostra freccia dorata, ha vinto 5-6 mondiali, non mi ricordo più, ci soffrono loro, li soffrono gli italiani, sono partiti quando Nuvolari li martellava con l'Alfa P2 nel 35 al Nürburgring, che loro avevano le auto Union e le Mercedes, che erano spon distanziati da Hitler perché dovevano far apparire la grande Germania. Mm-hmm. E Nuvolari con un'auto di vecchia di 10 anni ne ha buttato uno per cantone. Ci soffrono perché sanno che noi abbiamo l'educati, abbiamo avuto Agostini. Paolo, traduzione di ne ha buttato uno per cantone, traduzione. Se una camera c'è un angolo, no? Sì. Quando c'è una rissa, dai quattro sganassoni ne butti uno per angolo. Perfetto. Uno per cantone e bergamasco, per dirti. Perfetto. No? Perfetto. Quello volevo dire, ci soffrono, non ci dobbiamo arrabbiare, dovremmo essere lusingati dai titoli dei giornali, perché loro ci soffrono. Quindi, e questa cosa mi non gollisce, non mi arrabbio con i tedeschi, capisco. Se loro giocassero con una squadretta non scriverebbero niente. Sanno di che pasta siamo fatti, sanno i nostri pregi e ci soffrono, e perciò non ci stanno più dentro. Quindi è un po' come chi grida nel bosco per farsi passare la paura. Questo bravo, dice. Bravo. Eh? Poi noi se perdiamo, secondo me, merito Conte. Io sono juventino, perciò adesso, secondo me, Conte è una persona seria, grintosa e ti mette anima e corpo. nel lavoro che fa. Dopo le vicende giudiziarie, così non entro in merito, non so, non si saprà mai bene. Sì, però vabbè, grande sono persona anche e quando vedo l'inno nazionale, vedo i ragazzi di 20 anni, testa alta al cielo, che con quello che abbiamo subito dall'Europa e da tutto, mi inorgoglisco, mi sento italiano. Dalla punta dei capelli alla questa, questa è la grande forza del calcio, della nazionale, ma in senso positivo. Questo è. Poi, per quanto riguarda la partita di domani, io torno a ripetere: dovessimo uscire, cosa assolutamente possibile, forse addirittura probabile, visto che la Germania è più forte di noi, non solo per il fatto che sono campioni del mondo in carica, perché hanno più talento, perché comunque sono una squadra fisica come lo è l'Italia, mentre la Spagna, abbiamo dimostrato, non lo era, non poteva contenere la nostra fisicità. Dovessimo uscire domani sera, comunque da un punto di vista strettamente sportivo, l'Italia avrebbe fatto un eccellente torneo. È chiaro che i quarti di finale non possono essere un risultato da salutare con le bandiere, però abbiamo vissuto due partite almeno di grandissimo calcio, una molto difficile contro la Svezia, si è vinto il girone, si è andati contro la Spagna e abbiamo conquistato una vittoria che ci stavamo sognando da un sacco di anni. Quindi, da un punto di vista sportivo, l'Italia ha già fatto qualcosa. Adesso speriamo che possa fare qualcosa di più e di diverso dal punto di vista degli almanacchi e degli albi. Albi, Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno Genta. Grazie per la convocazione, complimenti. Grazie per la trasmissione, che è l'unica ascoltabile di questo genere. Non saprei, ma la ringrazio. Due cose rapide. La prima, mi è sembrato che con la Spagna uno dei vantaggi che abbiamo avuto è stato quello del fatto che loro si guardavano molto allo specchio, erano molto compiaciuti, volevano palleggiare, magari c'erano un po' sottovalutato e noi che siamo stati bravi a sfruttarlo. E loro giocano solo così, cioè la Spagna è quella, quindi al di là del guardarsi allo specchio, che può essere congenito, però la Spagna gioca solo in quella maniera lì. Questo può essere anche un difetto che magari verrà con il tempo corretto, non lo saprei dire, però sa giocare soltanto in quel modo, non sa giocare un calcio diverso, no Alberto? Sì, se la domanda era se la Germania potrebbe fare lo stesso errore e guardarci un po'. La seconda domanda, rapidamente poi concludo, è se, un po' per citare quello che è successo con la Brexit, che è una sventura che però ci ha permesso adesso forse di salvare le banche, quindi è diventata una cosa positiva, se avere una squadra, diciamo, dal livello tecnico molto basso può ritornare a nostro favore, perché ci ha permesso di fare un grande gruppo e magari di andare più avanti di quanto saremmo andati campioni. Grazie. Sì, grazie a lei. Sì, ma al di là della Brexit è così, questa squadra comunque è un gruppo di grande compattezza, ma non solo come si dice all'interno dello spogliatoio, non solo come gruppo a sé stante, come amicizie, come chimica che c'è tra i giocatori, è un gruppo vero in campo, perché questa squadra gioca davvero come una squadra di club, come poche volte capita di veder fare a livello di nazionale. È chiaro che il calcio di club dal punto di vista qualitativo è molto superiore rispetto a quello delle nazionali, per un sacco di ragioni facilmente intuibili. Le nazionali invece sono selezioni, hanno meno tempo di prepararsi, di allenarsi, di stare insieme, quindi è molto difficile vedere a livello di nazionali una squadra così organizzata e così compatta dal punto di vista calcistico come abbiamo visto l'Italia contro la Spagna, soprattutto i primi 60 minuti, che restano indimenticabili, rimangono uno dei momenti di calcio, io credo, anzi sono certo, più bello di calcio della nostra nazionale, più bello degli ultimi 25 anni. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo parlare un attimo del tifo contro. Io ho vissuto parecchi anni in Francia, a Parigi, nel momento in cui tra l'altro il calcio in Francia non era lo sport principale, e ci sono tantissimi italiani ovviamente in Francia, come ce ne sono in Germania, come ce ne sono in tutto il mondo, e ci sono tantissimi paesi nel Medio Oriente, in America Latina, che guardano le partite e vedono i giocatori italiani, e noi italiani siamo identificati in questi giocatori. Poi viaggiando per il mondo passi una frontiera, un doganiere ti dice Paolo Rossi, Bruno Conte, ti saluta. A chi di noi non è successo? È successo sempre, molte volte ci ha anche cavato in situazioni di difficoltà. Sì, sì, sì. Quindi voglio dire, la nazionale, a quelli che stanno in Italia, che non hanno mai mosso il culo fuori dall'Italia, è una cosa diversa, visto da dove si guarda, vuol dire, dipende dal punto di vista, e questa è una cosa importante. Poi un ultimo episodio, volevo ricordare, nell'82 io vivevo a Parigi e Sandro Pertini era in visita ufficiale in Francia e c'era un ricevimento all'ambasciata d'Italia, Rue de Varenne, una delle più belle ambasciate italiane nel mondo, all'ora in cui c'era Italia-Brasile. Quindi io ero molto in dubbio se andare a vedere questo ricevimento o starmi a casa a vedere la partita. Sono andato al ricevimento e l'ambasciatore d'Italia aveva messo un televisore in ogni angolo del giardino e quindi praticamente si guardava tutti la partita. E poi Pertini è venuto giù alla fine del primo tempo a salutare la comunità italiana. È stata una delle più belle ricevimenti a cui ho partecipato. L'Italia non ho dubbi, non ho dubbi, si è divertito come un matto, immagino. Assolutamente. Quindi lei diceva a proposito del tifo contro che non lo capisce, ma no, sì. Voglio dire, nel senso che quando uno chiaramente magari può essere anche abbastanza così, uno ma che vive sempre in Italia, non lo so Fabio, ma lei conosce, anche se ha vissuto molto all'estero, questo l'abbiamo capito. In Italia spesso prevalgono logiche di partito e Conte non mi va giù perché è juventino, in questa Italia c'è troppa Juventus e poi ognuno ha le sue ragioni per provare una insana, se permettete, antipatia nei confronti di questa nazionale. Però è così che succede, in passato è successo per, ricordiamo, nel 94 per motivi più politici. Però io sono per la libertà di tifo, posso anche non comprenderlo, non capirlo, ma io sono per la totale libertà di tifo e di scelta, anche per la libertà di gufaggio, come molte volte vi ho detto. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno, rispondendo anche all'ascoltatore precedente, a me Conte non piace, tantomeno non piace Tavecchio, o meglio, non piace come è arrivato sul fatto dei soldi, del fatto dell'ingaggio, perché non accetto la scusa o la motivazione del fatto che paga lo sponsor, perché se paga lo sponsor ora va tutto bene e si possono aprire mille scenari. Ha creato un precedente e a me non piace per questo. Questo non toglie che però... In che senso un precedente, Mauro? In che senso un precedente? Certo. No, è un precedente che anche in futuro potrà arrivare, che ne so, un CT coreano paga lo sponsor, perché con la motivazione paga lo sponsor, allora si deve accettare tutto. Questo non vuol dire... Pardo dice che è stata un'occasione per l'Italia, per me è stata un'occasione per Conte. Dopo, sì. Per carità, tanto di cappello per il lavoro che ha svolto, per la squadra, perché non è assolutamente affatto a livello lavorativo niente da dire. Però il discorso, mi scusi, il discorso paga lo sponsor sta nel fatto che la federazione italiana, le cifre che prende Conte, 4 milioni e mezzo più premi, non poteva permettersele. Ha preso un allenatore fuori classe, un allenatore di fascia A, di primissimo livello, come si sta dimostrando. E poi, insomma, se i soldi non escono dalle casse della federazione italiana, ma una parte appunto di metterlo lo sponsor tecnico, che è lo stesso di Conte, allora io non ci trovo nulla di male. Conte sta facendo la differenza in questa Italia e ce ne stiamo accorgendo tutti, tanto che quante volte abbiamo in questi giorni sentito non avremo fuori classe in campo, ma il nostro fuori classe ce l'abbiamo in panchina, verissimo. È quello che mi porta a dire che comunque è chiaro che questi stipendi non sono sostenibili dalle federazioni, da nessuna federazione, salvo forse quella inglese, che paga ancora di più un allenatore che è un disastro come Roy Hodgson, più di Conte, è l'allenatore più pagato, del commissario tecnico più pagato di questi europei. Questo torna a dire, le nazionali dovrebbero fare un passo avanti, ci vorrebbe quasi una rivoluzione culturale per aprire porte al doppio ruolo, al doppio incarico, che secondo me è ampiamente sostenibile, che ne dicano molti ascoltatori che non sono d'accordo, è ampiamente sostenibile con l'organizzazione e con i mezzi anche tecnologici di oggi. In questo modo le federazioni potrebbero permettersi, a costi gestibili per loro, allenatori di altissimo livello. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono un ragazzo di 50 anni, dove sì. Mi ricordo nell'82 che eravamo sfavoritissimi e parlavo con gli amici e dicevo andiamo a casa, Brasile, Argentina. Ho ormai non se ne parlava proprio, noi eravamo gli sfigatissimi proprio, no? Sì. Poi a un certo punto siamo diventati proprio i più forti, no? Perché eravamo quelli forti. E poi chissà perché, quando poi noi vinciamo, diciamo che gli altri forse hanno giocato male, che forse non ce l'hanno messa tutta, ma diciamolo che noi quando vogliamo siamo forti. E poi dopo i francesi, diciamolo anche questo, si incazzano più degli altri, i tedeschi si incazzano più degli altri perché perdono con noi, e per noi poi è una goduria. Certo. Diciamolo. Sì, buona giornata, tutto grazie. Tutto vero, Giuseppe, buona giornata, tutto vero che i francesi si incazzino. Lo si canta anche in una famosa canzone legata al ciclismo. E a proposito di ciclismo, per Augusto Stagi, via al Tour de France. Ciao Piero. Ciao Carlo. Ciao. Mi hai introdotto in maniera sublime. Evochiamo niente meno che Paolo Conte, che Paolo Conte e Gino Barza, che Gino, i francesi che si incazzano, le palle che ancora vi girano. Senti, speriamo che girino. Speriamo? Che girino. Ah, certo. Ah, certo che speriamo. Come me lo presenti questo Tour de France ai nastri di partenza nei giorni dell'Europeo? Quindi due grandissimi eventi che si danno quasi il cambio. Vabbè, l'Europeo durerà ancora una settimana. Per una settimana ci sarà questa sovrapposizione, questa sorta di balletto spalla a spalla, braccio a braccio. Ma intanto la Francia assolutamente è la centralità mondiale dello sport, due eventi mediatici di prima grandezza, no? Il campionato europeo di calcio, il Tour de France, e soprattutto è un bersaglio ahimè sensibile, ma il Ministero dell'Interno infatti ha già adottato tutte le misure per garantire anche la corsa francese che si sposterà. Ricordiamo che il villaggio mobile del Tour de France è composto da più di 5.000 persone, sì, e sono attesi milioni di appassionati sulle strade di Francia. Bene, il Ministero degli Interni ha deciso di creare proprio delle strutture ad hoc per salvaguardare e tutelare la sicurezza non solo logicamente degli atleti ma di tutto il pubblico, con un dispiegamento di oltre 23.000 poliziotti tra polizia e gendarmerie. Estate questo non facile riguarda... per la police francese, eh? Estate mica facile. No, no, non è facile, non è assolutamente facile. Sotto l'aspetto invece puramente agonistico, è un tour che parte con due grandi favoriti, che sono il britannico Chris Froome e il colombiano Nairo Quintana, uno insegue il Tris nella corsa francese, e invece il colombiano dopo due secondi posti spera di poter ottenere il suo primo successo francese. Immediatamente dietro c'è il grandissimo Alberto Contador, che vuole così ormai alle battute conclusive della sua carriera, ma vuole togliersi la soddisfazione di risalire perlomeno sul podio, ma soprattutto vuole, fortissimamente vuole, la maglia gialla. Poi ci sono i francesi come Romain Bardet e Thibaut Pinot, che fanno sognare la Francia. Loro sognano tutti gli anni nel mese di luglio e poi ahimè i loro sogni evaporano come la birra che si consuma lungo le strade del Tour. Ma ci siamo anche noi italiani, con la strana coppia che è costituita, come ben sai, da Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Nibali, che è il signore dei grandi giri, sollevato e leggero per il suo secondo successo personale al Giro d'Italia, già vincitore nel 2014 del Tour, vincitore della Vuelta nel 2010, che accompagnerà all'esordio, al suo esordio, Fabio Aru. Sono due atleti di prima grandezza e il punto di domanda è dato dalla loro convivenza. Certo. Riusciranno ad andare d'accordo, si daranno una mano, non si tireranno delle pugnalate alla schiena. Ma le premesse dicono di sì, però poi alle parole bisogna far seguire i fatti. Ascolta, ce l'abbiamo, abbiamo un paio di battute di Fabio Aru, ve lo faccio sentire, sentiamolo insieme. Una corsa diversa rispetto al Giro e Vuelta, non avendola mai fatta non so cosa mi fosse aspettare. Sicuramente ho ricevuto tanti consigli dai miei compagni di squadra, insomma, che hanno già corso il Tour. Mi avvicinerò con i piedi per terra, curioso di come sarà questa corsa e consapevole di essermi preparato preparato bene. Vedremo il 23 luglio, il 24 come sarà andata. È un parterre de roi, insomma, sicuramente sono tantissimi campioni al via del Tour de France: Contador, Froome, Quintana, Nibali, Bardet, Pinot, insomma, Rodriguez. Sono tantissimi. Questo non può che essere uno stimolo per me di far bene, di confrontarmi con tutti i più forti al mondo. Ma esiste il rischio di una difficile convivenza tra Aru e Nibali? Reale secondo te, Piero Augusto? A parole no, ma la realtà sappiamo spesso è un'altra cosa. Ma sai, guarda, in verità Fabio è intelligente, perché lui è un po' quello più ruspante, deve mettersi in testa che ad avere Nibali al proprio fianco è un'arma in più, e non deve andare in agitazione quel giorno, che potrà capitare che magari Nibali si trovi davanti, per una questione anche proprio per togliere pressione e mettere pressione agli avversari. Lui deve partire cercando di fare il meglio possibile. Poi c'è una regola molto banale, che è in salita, non è che vado davanti io, mi vieni dietro tu. In salita sta davanti il più forte. Sì, quindi sarà la strada a dire con molta semplicità e senza tanti giri di parole chi dovrà essere a tutti gli effetti l'atleta da proteggere. Certo. E questo lo capiremo già dalla settima tappa, perché dalla settima tappa incominciano i Pirenei, e lì ci sarà il primo scrollone, anche se dobbiamo dire che questo Tour de France è un tour molto Giro d'Italia, è un tour molto bello, proprio perché ogni giorno presenta un trabocchetto. Certo, parte domani con una tappa adatta ai velocisti, la maglia gialla la vestirà al 99,9 periodico un velocista, ma già dal giorno dopo ci sarà un traguardo che è aperto almeno a 30 corridori, con uno zampellotto, con uno strappo che potrebbe già far male e mandare in depressione qualche atleta che magari ambisce a qualcosa. Come abbiamo raccontato mille volte, come ogni tappa al Tour de France sia qualcosa di particolarmente importante, perché si corre lì in Francia con una tensione, con una voglia di vincere, con una cattiveria agonistica che non si vede in alcun'altra corsa del mondo. Vincere una tappa al Tour dà un senso alla carriera di un corridore. Grazie Piero Augusto, ovviamente ci sentiamo nel prossimo giorno per il Tour de France. Un minuto. Gianfranco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io mi volevo allacciare a quel messaggio che ha mandato Muller, che sono perfettamente d'accordo. Sì. Il rapporto di nazioni fra Italia e Germania è una persona che ci ha vissuto e che ci ha lavorato. Sì. Noi basta che vinciamo una partita di calcio, dopo sei tutto a posto, invece non è vero. Anche perché non è solo un fatto agonistico, se lei guarda il titolo di giornale del Resto del Casino di martedì, c'è scritto: Merkel, stiamo arrivando. Siamo arrivati noi a dei livelli in cui basta, ripeto, vincere una partita di calcio, abbiamo risolto i nostri problemi. Ma non è così, Gianfranco, non è così. Li abbiamo risolti per se vinciamo una partita di calcio per 10 minuti, perché siamo contenti, ma non siamo così, io credo, così stupidi da dimenticare i problemi che abbiamo per una partita di calcio. Questo vale per noi, ma vale anche per i cugini tedeschi. Vi saluto con una notizia di mercato: l'Inter ha praticamente preso piazza uno dei giocatori più interessanti di questo europeo, 21enne croato. Per lunedì sono fissate le visite mediche. Presentate, ciao. Ciao Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e un abbraccio particolare a Federico Binda. All'ultima convocazione, in bocca al lupo per tutto, ma tanto ci rivediamo. E noi ci risentiamo domenica dalle 5 alle 7 per Tutti Convocati Weekend, e saremo subito dopo la partita dell'Italia, subito dopo Italia-Germania. Forza Azzurri e grazie a tutti.